forse dannata, per qual prezzo vendeste il mio bene? O voi nulla per loro scombiere, ma mia figlia impagare il tesor, la rendete o seppur disarmata, questa man per voi fora cruenta, nulla in terra più Roma paventa, se dei figli difende l'onor. Quella porta, assassini, assassini, aprite la porta, assassini, ma aprite! Oh, voi tutti a me contro venite, tutti contro me, oh, ben io piango. Marullo, signore, tu c'hai l'arma gentil come il cuore, dimmi tu dove l'hanno nascosta, Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta, e là non è vero, e là non è vero, e là non è vero. Tutoci, ulm, miei signori, per me, ridote a me la figlia, tutto al mondo, ella per me, pietà, pietà, signori, pietà, signori, pietà.